Odissea 2011, in viaggio verso il futuro, di Maurizio Melis. Non sembra proprio un missile Jericho. Perché è un reattore ARC miniaturizzato. E ho uno bello grosso che alimenta la mia fabbrica in America. Dovrebbe tenere le schegge lontano dal mio cuore. Ma che cosa potrebbe generare? Se i miei calcoli non sono errati, e non lo sono mai, 3 gigajoule al secondo. Potrebbe tenere il tuo cuore in funzione per 50 vite. Sì, o qualcosa di grosso per 15 minuti. Buonasera, benvenuti a Odissea 2011. Quello che avete appena sentito era Tony Stark, il ricco genio protagonista di Iron Man, fumetto Marvel, prima e poi in seguito divenuto film. Ed è la scena in cui lui, imprigionato in una grotta con un po' di materiale di recupero, mette a punto una prima grezza armatura che di fatto è il precursore di Iron Man, che utilizza per fuggire dal luogo di prigionia. Il pezzo forte dell'armatura è un piccolo oggetto delle dimensioni di un pugno che viene posizionato nel centro del petto, un reattore probabilmente nucleare che fornisce un'enorme quantità di energia grazie alla quale Iron Man può volare, può sollevare pesi giganteschi e sparare, insomma, un po' di tutto. Ed eccoci al tema di stasera, l'energia. Ci domanderemo quali saranno le energie del futuro. Prima di lanciarci a testa bassa fra tecnologie più o meno futuristiche, lasciatemi però fare una breve riflessione. La prima domanda che dovremmo farci, infatti, mi sembra che dovrebbe essere la seguente: perché siamo così tanto dipendenti da gas, carbone e petrolio? Beh, di certo perché si tratta di veri e propri concentrati di energia. In un chilo di benzina c'è 15 volte l'energia di un chilo di tritolo. Ma anche per un'altra ragione, probabilmente, cioè perché presa una direzione tecnologica è molto difficile tornare indietro. A fine 800 lo sfruttamento del petrolio era per esempio molto difficoltoso e anche piuttosto inefficiente. Si arrivava ad estrarre petrolio a non più di qualche decina di metri di profondità e si riusciva a sfruttarne solo una piccola quota, se no il 20%. Ma decenni di ricerca e di investimenti, spesso parliamo di fantastiliardi di incentivi pubblici, hanno permesso alla tecnologia di estrazione di arrivare a vari chilometri di profondità e alla tecnologia di raffinazione di estrarre di tutto e di più dagli idrocarburi. Pensiamo alle plastiche, per esempio. Cambiare modello energetico vuol dire quindi in pratica ricominciare questo percorso da capo. Tuttavia è esattamente questo che si sta cercando di fare di fronte anche alla sfida del cambiamento climatico. E allora iniziamo con un primo assaggio di futuro energetico. Ascoltate la scheda. Il numero di luglio di Le Scienze è dedicato a 7 tecnologie che hanno bassa probabilità di successo, ma che se funzionassero rivoluzionerebbero lo scenario energetico. Nuove miscele di sali capaci di imprigionare grandi quantità di CO2 permetterebbero, applicate alle ciminiere, di eliminare il pericoloso gas serra. È quanto si sta cercando di fare all'Energy Center della Notre Dame University. Mentre ai Sandia Laboratories, sempre negli Stati Uniti, si pensa a inviare CO2 mista ad acqua a speciali ruote dentate che, surriscaldate dal sole, li trasformerebbero in una miscela di gas combustibili, in pratica benzina dal sole. Sempre con un disco rotante, realizzato con una lega dotata di particolari proprietà magnetiche, sarebbe possibile realizzare sistemi di condizionamento estremamente efficienti. Un progetto a cui stanno lavorando i ricercatori dell'Astronautics Corporation of America, mentre i colleghi della Michigan State University sono impegnati a mettere a punto un innovativo motore ad onde d'urto, che potrebbe spingere i veicoli ibridi del futuro 5 volte più lontano di quanto fanno oggi a parità di combustibile consumato. E l'elenco continua, tra fotovoltaico quantistico, nuovi sistemi di cogenerazione e progetti per produrre energia dal combustibile nucleare esausto. Certo, viene da chiedersi chissà quante di queste 7 strade così promettenti potevano essere percorse prima. È molto difficile rispondere. Nessuno però, di questo ne sono sicuro, ha mai tentato nulla del genere. Ascoltate. Rifletti, all'esterno c'è la luce solare. Bander compì un gesto stranamente aggraziato, quasi volesse creare la luce del sole tutto intorno. E c'è l'ombra. C'è più caldo al sole che all'ombra, e il calore fluisce spontaneamente dall'area illuminata all'area in ombra. E di notte la superficie di Solari è più calda degli oggetti che si trovano oltre la sua atmosfera, e dunque il calore fluisce spontaneamente dalla superficie planetaria nello spazio esterno. E sia di giorno che di notte l'interno del pianeta è più caldo della superficie. Il flusso del calore tra due zone a temperatura diversa, che deve avvenire per la seconda legge della termodinamica, può essere sfruttato per compiere dei lavori. In teoria sì, rispose Trevize. Ma la luce solare è diluita, il calore della superficie planetaria è ancora più diluito e il calore proveniente dall'interno ha una concentrazione ancora più bassa. La percentuale di flusso termico utilizzabile probabilmente non sarebbe sufficiente a sollevare un sasso. Dipende dall'apparecchiatura usata, disse Bander. Il nostro congegno è stato perfezionato in un arco di tempo di migliaia d'anni e trattasi niente meno che di una parte del nostro cervello. Bander si sollevò i capelli ai lati della testa e dietro le orecchie si notavano due rigonfiamenti che avevano la forma e le dimensioni di un uovo. «È questa parte del mio cervello», disse, «che a voi manca, a segnare la differenza fondamentale tra un solariano e voi». Ed eccoci di ritorno da Solaria, pianeta nato dalla penna di Isaac Asimov, i cui abitanti in 20.000 anni di isolamento non solo hanno sviluppato questa incredibile tecnologia di cui avete sentito parlare, ma sono anche diventati ermafroditi, e devo dire che questo lo invidio già meno. Sta di fatto che tutta l'energia di cui gli abitanti di Solaria hanno bisogno arriva dal sole, dal vento e infine dalla geotermia, grazie addirittura a delle barre che vengono descritte nel libro conficcate per chilometri nel terreno che facilitano la risalita del calore dal nucleo del pianeta. Certo, si tratta di fantascienza, eppure nei prossimi anni potremmo assistere ad alcune evoluzioni sorprendenti di tecnologie che già conosciamo e che già oggi partecipano al mix energetico, come per esempio l'eolico e il geotermico. Sentite qui. In questi giorni in Piemonte si sta mettendo a punto il primo prototipo su scala industriale di KiteGen, una rivoluzionaria tecnologia eolica che permetterebbe di sfruttare il vento presente in alta quota, dove neanche le pale eoliche più grandi possono arrivare. A 800 metri d'altezza, l'energia del vento è 4 volte più potente che a 80 metri e cresce ulteriormente al crescere dell'altezza. Grazie ad aquiloni molto simili a quelli usati nel kitesurf, KiteGen è in grado di intercettare i venti fino a 2000 metri di quota. Spinti dal vento, gli aquiloni salgono nel cielo disegnando dei yacht, tirando con forza il cavo a cui sono legati. Nello svolgersi, il cavo fa ruotare dei generatori elettrici producendo ingenti quantità di energia. Se tutti i problemi legati al controllo in volo di questi aquiloni verranno risolti, è questo l'aspetto tecnicamente più difficile, l'energia eolica potrebbe fare un balzo in avanti e divenire definitivamente competitiva con i combustibili fossili. Un'altra immensa fonte di energia sta invece sotto i nostri piedi. In certe aree del pianeta, ad alcuni chilometri di profondità, si trovano fluidi caldissimi imprigionati da strati di roccia impermeabile. L'estrazione e lo sfruttamento di questi fluidi caldi per produrre energia elettrica risalgono all'inizio del Novecento. Molto più spesso, però, nel sottosuolo sono presenti rocce calde ma secche, prive cioè di un fluido da estrarre. Maria Carapezza, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci spiega come si potrebbe produrre energia elettrica anche in questi casi. Questo è un problema frequente, cioè durante l'esplorazione geotermica i pozzi geotermici possono incontrare in profondità rocce calde impermeabili, cioè senza fluidi, quindi senza la risorsa, e quindi secche. Quindi il calore non è utilizzabile a fini energetici diretti a meno di non farvi circolare acqua, che quindi viene immessa dalla superficie in un circuito idraulico che viene creato artificialmente, fratturando le rocce calde. E si procede a fratturare queste rocce con la pressione idraulica, di solito con un circuito idraulico. L'acqua inettata si riscalda e il vapore viene riestratto da un secondo pozzo. Eolico d'alta quota e rocce calde secche dunque, e poi naturalmente c'è il fotovoltaico. La seconda generazione di fotovoltaico è già sul mercato, si lavora alla terza che dovrebbe vedere protagonisti i materiali organici e le nanotecnologie. E proprio da questo mondo, quello delle nanotecnologie, emerge uno dei materiali più incredibili mai realizzati dall'uomo che in campo energetico, e non solo a dire il vero, potrebbe fare la differenza. Parliamo del grafene, che è stato scoperto nel 2004 dai fisici Andrei Geim e Konstantin Novoselic, che per questo hanno ricevuto il premio Nobel nel 2010. In pratica il grafene è un materiale costituito da un solo strato di atomi di carbonio. Si può immaginare come una sorta di pavimento di piastrelle esagonali in cui gli atomi di carbonio occupano i vertici degli esagoni. È un materiale davvero straordinario, spesso, anzi sottile quanto un solo atomo, conduce l'elettricità come nessun altro e siamo già oggi in grado di utilizzarlo, anche se solo in laboratorio, per creare transistor per computer ultraveloci. Ma già si pensa a pannelli solari ultra efficienti e a batterie dotate di grande capacità e soprattutto in grado di ricaricarsi, anche quindi di scaricarsi in pochi secondi, ed è proprio questo che serve se volete per esempio veicoli elettrici che si ricarichino in fretta, se volete pistole a raggi o anche una batteria per alimentare l'armatura di Iron Man. Inoltre, dopo la scoperta del grafene, si stanno scoprendo un po' a raffica molti materiali simili, composti cioè da un solo strato di atomi, ma non più a base carbonio, materiali che promettono meraviglie nei prossimi anni. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Bentornati da Maurizio Melis, torniamo a parlare di energia, anzi di energie, quelle che forse alimenteranno il nostro futuro. E ce n'è una in particolare che potrebbe per sempre porre fine a ogni problema di scarsità energetica. Ascoltiamo. Il processo di fusione produce così tanta energia che in un bicchiere d'acqua da 200 cc c'è combustibile di fusione sufficiente a uguagliare il contenuto di energia di 500.000 barili di petrolio. Con una fusione nucleare pulita ed economica saremo in grado di fornire energia sicura e affidabile alle nazioni più povere. Un altro impiego importante dell'energia di fusione sarà nel riciclaggio dei rifiuti. Per 50 anni e più abbiamo considerato il riciclaggio del metallo e della plastica come un modo per tenere pulito l'ambiente. Ma per riciclare ci vuole energia. La fusione renderà il riciclaggio redditizio. Inoltre, quando, grazie ai centri di riciclaggio nucleare, tutti i nostri rifiuti verranno praticamente trasformati in elementi altamente raffinati, avremo a disposizione una nuova fonte di materie prime. Ebbene, queste sono le parole che lo scrittore di fantascienza Ben Bova in un breve articolo mette in bocca al primo presidente di un ipotetico consiglio mondiale che dovrebbe nascere nel 2042. Ed eccoci alla fusione nucleare, che è considerata un po' il santo graal dell'energia, in quanto sarebbe una fonte pulita e praticamente illimitata. Infatti ci si lavora da anni e ITER, che è il grande reattore sperimentale in corso di costruzione a Cardache in Francia, parliamo di un progetto internazionale da 16 miliardi di euro, lo dimostra. Ebbene, per parlare di fusione ci siamo rivolti al professor Bruno Coppi, che a dire il vero su ITER è fortemente critico, ma che è uno dei maggiori esperti mondiali di fusione nucleare e da oltre 30 anni si occupa di questo al MIT di Boston. Ascoltate. È ben noto, credo, che il sole, per esempio, ci illumina perché a causa delle reazioni nucleari che avvengono al suo interno. Le reazioni del sole sono reazioni di fusione. Quelle che pensiamo di utilizzare noi sono simili a quelle della bomba all'idrogeno, che coinvolgono isotopi dell'idrogeno, cioè il deuterio e il trizio, che è 3 volte più pesante dell'idrogeno. Poi ce ne sono altre ancora migliori, direi, che coinvolgono il deuterio, che è il nucleo presente nell'acqua pesante, e l'elio 3, che è un elio speciale molto leggero, presente in particolare sulla Luna. Comunque è possibile produrre gli O3, quindi questi sono i tipi di reazioni cui pensiamo per costruire il reattore fusione. Fare la fusione è difficile in quanto si tratta di produrre dei cosiddetti plasmi, dei gas a grandissime temperature, quindi è certamente difficile. Questo è stato fatto in modo non controllato nella bomba all'idrogeno e in laboratorio naturalmente ci riusciamo, ma non a sufficienza da poter dire che è possibile produrre energia. Devo dire che all'MIT abbiamo scoperto dei regimi di fisica per cui è possibile con questi gas ad altissima temperatura confinati da alti campi magnetici raggiungere condizioni dove questi gas possono accendersi per reazione di fusione. Ma perché è così difficile fare la fusione nucleare? Proviamo a spiegarvelo con una scheda. Si parla di fusione nucleare quando i nuclei di 2 atomi leggeri si fondono tra loro dando vita ad un atomo pesante. Questo processo libera immense quantità di energia, ma perché ciò accada sono necessarie condizioni molto particolari. Immaginate un grande tavolo da biliardo su cui si muovono delle biglie molto speciali, che nel nostro esempio rappresentano i nuclei degli atomi. Queste biglie sono cosparse di una colla potentissima e se entrano in contatto si uniscono fortemente tra loro, un processo che libera moltissima energia. Tuttavia, avendo tutte carica elettrica positiva, le biglie si respingono a distanza, come fanno i poli uguali di 2 calamite. Farle incocciare, quindi, è molto difficile, poiché appena si avvicinano l'una all'altra tendono a deviare e ad allontanarsi. Perché ciò accada è necessario che siano lanciate a grandissima velocità l'una contro l'altra e possibilmente che ci sia un grande affollamento di queste biglie, una circostanza che rende le collisioni più probabili. Velocità e affollamento corrispondono, a livello macroscopico, a temperature e pressioni molto elevate, milioni di gradi e miliardi di atmosfere, condizioni che in natura si trovano nel centro delle stelle e che è complicatissimo replicare in maniera controllata sulla Terra. Insomma, le difficoltà non mancano. Non a caso da decenni si parla di fusione nucleare, ma il momento della sua entrata in scena come forma di energia viene sistematicamente spostata in avanti. C'è però invece una domanda che a questo punto dobbiamo farci. E se ci fosse un altro modo per fare la fusione senza bisogno di temperature e pressioni mostruose. Nel 2009, molti ascoltatori lo ricorderanno, Fleischmann e Pons, due scienziati americani, annunciarono di aver realizzato la cosiddetta fusione fredda. Ma nessuno nell'immediato riuscì a replicare il loro esperimento, che passò infatti alla storia come una delle più incredibili bufale scientifiche. Eppure in sottotraccia le ricerche negli anni sono continuate e secondo chi ci lavora, e tra questi ci sono tanto per dire la NASA e la Toyota, i risultati tutto sommato sono incoraggianti. Anche se nessuno parla più di fusione fredda, è stato coniato un nuovo termine, anche più corretto scientificamente, e cioè reazioni nucleari a bassa energia. Di recente, tra l'altro, due italiani, Andrea Rossi e Sergio Foccardi, hanno annunciato di aver realizzato un reattore basato su questo principio, le reazioni nucleari a bassa energia, che potrebbe addirittura essere pronto alla commercializzazione in pochi mesi. Ci sono, va detto, molti dubbi sul suo effettivo funzionamento, anche perché è coperto da segreto industriale e se ne sa molto poco. Inoltre, la maggior parte dei fisici, incluso il nostro Bruno Coppi, ritengono impossibile che la fusione nucleare possa avere luogo alle condizioni della cosiddetta fusione fredda, poche centinaia di gradi e poche atmosfere. Allora ho chiesto a Francesco Celani, che è invece un esperto di fusione fredda ed è anche vicepresidente della Società Internazionale di Scienze Nucleari della Materia Condensata, di spiegarci perché invece lui ritiene che tutti questi fisici si sbaglino. Sentite com'è andata. Il fisico cerca di semplificare le osservazioni, quindi il modo più semplice per studiare ad esempio la fusione calda è nel vuoto, due particelle isolate che vengono fatte sbattere l'una sull'altra, gli esperimenti si fanno sempre, tasso di riproducibilità 100%, tutti contenti. Peccato che la natura è diversa, non è nel vuoto. Nel caso della Terra abbiamo il reticolo cristallino, alcuni materiali speciali, palladio, nichel, titanio, in condizioni opportune a volte presentano dei risultati che non sono spiegabili con reazioni chimiche note e quindi ascrivibili, data la loro densità di energia, a processi nucleari. Questa è la cosiddetta fusione fredda. Cioè, questi reticoli cristallini sono come delle gabbie, no? Sono come delle gabbie che però possono essere opportunamente sfruttate, sì, per aumentare la probabilità di fusione che c'è nel vuoto tra due particelle isolate che sono sottoposte alla repulsione coulombiana. È come se si usasse la persuasione al posto, sì, di usare la forza. Questa in gliela sto rubando modo, in realtà. Sì. Il gruppo che aiuta... due persone che si odiano cercano a stringersi di mediare. Sta di fatto che fredda o calda la fusione nucleare ci metterebbe a disposizione milioni di volte l'energia di cui disponiamo adesso. Eppure c'è chi pensa che si potrebbe fare di meglio, anche se certamente in un futuro piuttosto lontano. Introduciamo quest'ultimo argomento così, ascoltate. Questo corpo non è mio. Sono stato costretto a prenderlo per esistere nel vostro tempo. Come mai è qui? I nostri piccoli moriranno nel pozzo gravitazionale. È artificiale. Il pozzo gravitazionale artificiale? Cioè il nucleo del motore romulano? Sì. Come sono rimasti intrappolati nel nucleo? Noi dobbiamo usare un pozzo gravitazionale naturale come incubatrice per i nostri piccoli. Credevamo che il nucleo romulano andasse bene, ma così non è stato. Capitano, l'alieno ha scambiato la singolarità quantica artificiale che i romulani usano nei loro motori per una naturale, un buco nero, e se ne è servito come nido. Beh, insomma, produrre energia da una singolarità quantica, cioè in pratica da un micro buco nero come fanno i romulani di Star Trek, non è quasi certamente una buona idea. E anche quanto all'antimateria usata a bordo dell'Enterprise, l'astronave del capitano Kirk, è certamente l'antimateria il miglior combustibile che si possa immaginare, perché si trasforma completamente in energia, ma di certo non è una fonte di energia, dato che per produrla, come si fa per esempio nei grandi acceleratori di particelle come quello del CERN, bisogna usare enormi quantità di energia. Eppure quel territorio che è la meccanica quantistica con le sue strane regole probabilistiche ci fa intravedere possibilità persino più esotiche. Mi riferisco alla cosiddetta energia di punto zero. Ce ne parla il nostro fisico teorico di riferimento Stefano Liberati, ricercatore della SISA ed esperto di fisica, beh, diciamo così, estrema, mi sembra una buona definizione. Ascoltiamo. L'energia in punto zero è un fenomeno legato alla meccanica quantistica. La meccanica quantistica ci dice che anche se prendiamo una regione di spazio-tempo completamente vuota, dove non c'è nessun atomo e nessuna particella elementare, ciononostante questa regione non è inattiva, c'è una specie di effervescenza per cui dal nulla in continuazione si creano e si distruggono coppie di particelle e antiparticelle. Queste coppie di particelle e antiparticelle sono quello che si chiama un'energia di punto zero, quindi in un certo senso anche nel vuoto più assoluto, grazie alla meccanica quantistica, si può dire che c'è un'energia del vuoto. Questa energia del vuoto di solito è invisibile, però in certe situazioni diventa evidente. Una di queste situazioni, ad esempio, è quando si prende una regione di spazio e tempo e si mettono delle piastre di, che ne so, metallo conduttore, e si può registrare che queste due piastre tendono ad attrarsi. Quello che succede è che sostanzialmente, avendo messo delle pareti, degli oggetti che mettono dei bordi a una regione di spazio-tempo, in qualche modo noi possiamo vedere la differenza di energia rispetto al caso in cui non ci sono le pareti. Questo effetto, chiamato effetto Casimir, che ormai verificato sperimentalmente, fu previsto da uno scienziato olandese nel 1948, appunto Casimir, è un effetto che viene considerato come una possibilità di vedere la realtà di questo tipo di energia. Dunque, va detto a onor del vero che Stefano Liberati è molto scettico quanto alla possibilità di riuscire a utilizzare praticamente, concretamente, questa energia di punto zero, però ci sono altri scienziati che stanno lavorando invece proprio a questa idea. Insomma, forse un giorno, grazie all'energia di punto zero, potremo viaggiare nel cosmo mietendo come fosse grano l'energia che risiede nel vuoto. Per il momento, però, dobbiamo ancora imparare a sostituire i combustibili fossili con altre fonti di energia meno devastanti, e la strada è ancora lunga. Noi però ci dobbiamo fermare qui. Appuntamento a sabato prossimo.